Remake. Hello everybody, you're very welcome to the of Remake. Domenica pomeriggio, il 17 giugno, magari una giornata sfortunata per alcuni, però sicuramente molto fortunato per quelli che tifano un certo squadra che stanno vincendo. Poi parliamo di quello tra brevissimo, però prima voglio salutare On Controls, il nostro Giancarlo Raiola. My name is Virgil Kavanagh, you're listening to the program where we sentire vecchi brani, poi in versione nuovi e remixati. Iniziamo dal 1986, un gruppo di nome Shalimar, e questo le dedico, forse è un po' presto dirlo ancora, però visto come stanno i risultati al momento, questo le dedico a quel gruppo, quel squadra in capo alla classifica e tutti i suoi tifosi, perché sicuramente stasera will be a night to remember. When you love someone, I rap at Starbucks, I'm that star, who get the star struck? You a one hit wonder who caught some hard luck. I'm that kid, cats can't wait to start up, but the show ain't over till the bottles is empty. And girls run out the club, files the Bentley. Don't need every president, need a Lewinsky. Girls know I ain't know you, but they try to convince me. And any chick that I'm with already know, you ain't got to like mates, but Betty Blow. And anything that I do, get heavy dough. Stop handcuffing that girl and let her go. My whips got satellites, see it in the graphics. I ain't only got eight, cause I fly past it. Why axes, makes a classic. Knowing I'm from the hood, doing deals with magic. Come on. Get money again, or I'll get money again. When the broke get money again, bad boy get money again. Get ready, Night to Remember, that's Mace and I Love Him. Okay, sto dicendo, non è I Love Him Very Good, it's a remake questo pomeriggio. Questo è un rifacimento di A Night to Remember dai Shalimar. Allora, Mace l'ha registrato per il suo album del 1999, Double Up è il nome dell'album, e questo è stato il suo secondo album, però poi a quel punto ha deciso di non registrare più, di seguire la religione, e quindi non può fare il rap, dice. E spero però prima di andare che ha fatto A Night to Remember per sé. E prima l'originale erano i Shalimar, del loro album Friends dell'82. Now here's Earth, Wind and Fire with September. We'll be right back. Radio Kiss Kiss Network. Wind and Fire, l'originale è September, viene dal 1978, ma questa versione che sentiamo adesso è sempre loro, ma remixati dal production team Fox and Small, due ragazzi da Brighton UK che fanno il DJ remixato, e siccome l'avevano fatto nel settembre del 99 hanno intitolato la loro versione September 99. Piccola pubblicità per noi, on remake, e torniamo con un grande grande pezzo da Lenny Kravitz. Remake. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Rearrange and turn this planet back to one. Woo! grande chitarra che segna un proprio pezzo classico del rock and roll. Classico sì, anche se è stato solo 8 anni fa, di Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, è il titolo sia del brano che l'album che ha fatto, forse il suo più bel album che ha fatto Lenny Kravitz. Allora poi abbiamo ascoltato Tom Jones, che è colpevole di un sacco di cover. Comunque bello questo, Are You Gonna Go My Way, dell'album Reload, dove lui ha chiesto l'aiuto di Robbie Williams, quell'altra voce che avete sentito. Bello, bello, un remake questo domenica pomeriggio. Ok ragazzi, siete pronti a ballare? Vi presentiamo Kool & the Gang with Get Down On It. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. I heard all the people saying, get down on it, come on then, get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it, get down on get it. Get down on it, get down on it. Come on then, get down on it. Baby, baby, get down on it. Get on it. By standing on the wall, get your back up on the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up on the wall. 'Cause I heard all the people saying, back in the day of the jam, the minute you get down and do a b-boy stance, and automatically you know that this is the joint that other rappers will be studying you for points, and then magically you took control of the crowd, and so suddenly you're the one in the house. Then you realize that with the mic in the palm that hypnotized you into dropping a bomb. Got you open now, 'cause you're feeling the flow. Now you're bugging out, 'cause you're rocking the show. Fly honey dips all up in your face, bumping with the whips, popping your mixtapes. It's no coincidence the way they respond on it. Pull yourself now and just get down on it. Let's get down on it. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's get down on it. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's get down on it. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's get down on it. Let's do it again. Let's do it again. Let's get down on it. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's get down on it. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's get down on it. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it. Give us a move. And all the while, they're probably checking your scalp, but on the other side, the girls are giving you smiles, and who should know? At first you couldn't feel it yourself, but now you're rocking much harder than anybody else. So for the DJ, sees you doing your thing, so then he drops a negative to put the party in swing. And as the bass sits, start to feel it for shaking. And now you say to yourself, I'm glad I didn't wait, 'cause I'm the wallflowers. Want a piece of the act, they take one step forward and two steps back. The place is packed, the place is packed. No time to react, you grab a count to part, you count to act. I'm a party till the morning sun starts to shine, so when you hear the funky jam, I always feel your mind. Let's get down on it. Let's do it again, let's do it again, let's do it again. Let's do it again, let's do it again, let's do it again, let's get down on it. Let's do it again, let's do it again, let's do it again, let's get down on it. Let's do it again, let's do it again. course, the best place to test activity. The sequel rocks the best. A lot of DJs play only what they like, but there's certain jams that keep the crowd hanging to the same ones over all these years. And if your mind fits, you get screams and cheers. Get a reputation for blowing up the spot. By studying the music, you can get more props. Make it sound fat, sure to get your bounce. Get a record deal, count large amounts. Make another one to show if you got skills. When you go platter, buy yourself some wheels, but don't fall off, cause you might lose the beat and don't go pop. If you might lose the street, it's no coincidence the way they respond on it. Hold yourself now and just get down on it. That's the hip-hop of the Jungle Brothers with Get Down from il loro album VIP del 2000, però purtroppo non hanno avuto il grande successo che volevano con questo, almeno non quanto hanno avuto Kool & The Gang with the original Get Down On It del 1981 e il loro album Something Special. E questo singolo per Kool & The Gang ha venduto più di 500,000 di copie, incredibile. You're listening to Remake e devo salutare Clotilde che sta a casa, poverina, c'ha la varicella, spero che Parisci presto, Clotilde. Poi anche voglio salutare Sergio e Rosa Maria che vogliono sapere qual è la frequenza a Calabria. Comunque mi dovete dire esattamente dove in Calabria. Il nostro SMS per segnarci qualunque cosa è 348-661-9461. Aspetto i vostri messaggi e andando avanti con la musica, adesso ascoltiamo Moby, il grande Moby, dall'album Play, tre versioni di Honey. Sono brani pronto per il prossimo album. Comunque la cosa è che se fa tre versioni di ogni canzone, immagino che avrò un sacco di musica pronto. Allora ragazzi, è il tempo di fare un piccolo salto attraverso l'acqua. Da Napoli andiamo a Cagliari e ci troviamo sulle spiagge del Poeto. Colleghiamoci con Raul, dove c'è il campionato mondiale del beach volley, la tappa italiana del tappo femminile. Allora Raul, linea a te. Raul, salutami quei concorrenti del Miss Italia, mi raccomando. Infatti c'è un concorso adesso in atto, c'è una selezione appunto proprio del concorso Miss Italia. Ok Viviana, allora io ritorno da te, va bene? Vabbè, se proprio devi ritorno. Torna da me, ciao Fergal. Ciao Viviana, e questo le chiamate lavoro ragazzi, buon divertimento. Ok, going on a remake, ascoltiamo la bella musica del passato, remixato o rimesso in un bel modo moderno. Saluto Gabriella do Bergamo che voleva sentire Maniac di Lollipop, visto che in verità è di Sam Bello e domani parte per Londra. Purtroppo non ti posso accontentare oggi, però farò un po' di ricerca. Però per augurarti un buon viaggio Gabriella, ti faccio sentire dagli anni 80 Milli Vanilli with Girl You Know It's True, 1989. I'm in love with you, girl, cause you're on my mind. You're the one I think about most every time. And when you crack a smile and everything you do, don't you understand, girl, this love is true. You're so sick, you're hanging on sweet and thin. That's kind of like a passion up on your skin. It lightens up my day, and that's also true. Together we're one, separated we're two. Yes, you know. the KS. Yes, we're gonna fly the nest. We're gonna find a new zone, make it on our own. So power to the people, now you're bound to the throne. Everything is on the head, playing with the boy band. AG comes before H, don't you know? When the lights go out, fuck, better watch out. Garrett dodged a silence and he's far too fat. Along came Robbie and he said, take that. I put it on the line for the MTV. Puff Daddy, tough Daddy, just wait to see. Cause when the going gets tough, the puff gets going. All of you girls just needed to believe it. West life, low life, go and get your own life. Look into their eyes and sing. La versione che abbiamo ascoltato prima, With Girl You Know It's True, è stato un grande vergogno per i Milli Vanilli quando è stato scoperto che non erano loro che cantavano sui loro dischi, che era un produttore tedesco, e loro hanno vinto un Grammy Award per questo brano, però purtroppo sono dovuto ridarlo indietro perché è stato un grande bluff. E poi abbiamo sentito il cover di Keith and Shane, due ragazzi di Boyzone, e chissà se sono veramente loro che cantano su quel disco. No scherzo, sicuramente lo erano, ex colleghi di Ronan Keating. It's Keith and Shane with Girl You Know It's True on Remake questo domenica pomeriggio. Allora facciamo una piccola pausa, però il numero del nostro messaggi è 348-661-9461. Ragazzi, datevi da fare e ci sentiamo tra pochissimo. Remake. Like this. Times must I explain myself, or I'm gonna- Man, questo è il nome del pezzo, grande, grande, questo l'originale viene dall'album di Eric Clapton, Behind the Sun, 1985, un brano che li ha riportato come un grande artista dopo un paio di anni di mediocrity. Poi abbiamo sentito una versione del 2000, tutto remixato, tutto campionato, tutto versione dance dalla Beach Huggers featuring Eric Clapton, Forever Man. Ok ragazzi, che state facendo questa domenica pomeriggio? Vi trovate sulla spiaggia a prendere un po' di sole, le cose vanno un po' con calma per voi? E se ci volete raccontare, 348-661-9461. E nel frattempo, per tutte quelle on the beach, this is Chris Rea for you. Between the eyes of love, I call your name. Behind those guarded walls, I used to go. Upon a summer wind, a certain melody takes me back to the place that I know. On the beach, yeah. Down on the beach, yeah. The secrets of the summer I will keep. On Remake questa domenica pomeriggio, on the beach, sulla spiaggia. Loro l'hanno fatto uscire nell'ottobre del 2000. In ottobre non è che si sta molto on the beach, sulla spiaggia. Comunque, bella questa versione dance of that song. And the originale of On the Beach comes from Chris Rea, dal suo album On the Beach, dal 1986. E noi torniamo adesso al 1979, dove troviamo il giovane e bravissimo Michael Jackson. Thank you. Remake. Move to this, let me see you jump and twist. Pump your fist, cause you know it's hard to resist. That's how you know you're rolling with the love specialist. Feel the vibe, every good to groove in the hits. The night is young, so make a roll with the fun. You got some gum, take it out, give me some. Cause I'm about to play an old girl like a drum. She's the shaggy tie for it's all said and done. Girl, what you gonna do with all that body? Get through that thing before you hurt somebody. Do it, baby. So be hanging by the bathroom door, waiting for the honeys as they leave the dance floor. That's right, you get the digits, y'all ready for the score. Now who's the dog? You're the one that's on all four. Come on, I gotta take this party to a new high. Keep it tight, ain't got no time for no fun. You wanna be a player, better know to do it right. Careful of the honeys under the disco light. Girl, what you gonna do with all that body? Careful with the things before you hurt somebody. Feel it or not. It is all night action, so I'll dance to the beat with a passion. Say, girl, it's the love of parties happening. You know that thing. Doing anything to an action, girl. I'll take you with this all night action. Dance to the beat with a passion. It's the love of parties happening. Doing anything you imagine. All night. Morning light. Party all night. Shaggy with Dance and Shout from his last album Hot Shots. Questo è stato il primo singolo e la cosa pazzesca è che il record company quasi quasi non volevano farlo uscire pensando che non sarebbe stato un successo, e adesso pensiamo ad Angel e It Wasn't Me come sono stati un grande successo. Comunque, that's Dance and Shout from Shaggy, che usa un campione of Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, from the album Off the Wall che abbiamo ascoltato prima on I Love America, and no, on Remake con il nostro Giancarlo Raiola on controls facendo tutti questi bei remix. È arrivato Ornella, pure tra un'ora lei farà la classifica. Immagino che ci sarà pure Shaggy lì. Comunque, listening to the sounds of the summer, per quelli in spiaggia, perché fa caldo, here's Club Tropicana from Wham. But don't worry, you can sunshine. Club Tropicana, bellissimo, questa versione latina, The Gypsy Kids, e questo immagino sarà un grande hit quest'estate. E prima di quello abbiamo ascoltato l'originale del 1983, i Wham con George Michael, uno dei loro primi pezzi, Club Tropicana, bella proprio. Allora adesso sono le 17, ascoltami le notizie. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Kiss Kiss Network. Kiss Kiss Network. Bellissimo questo, versione gregoriano, infatti il gruppo si chiamano Gregorian, That's Losing My Religion, perdendo mia religione, dal loro album Masters of Chant che è uscito nel 2000, e questo le dedico a mio amatissimo Napoli che purtroppo sono sceso in Serie B, ho perso il sogno, mi dispiace ragazzi. L'originale chiaramente dai REM, dal 1993 l'album Out of Time, gran bel pezzo. In sottofondo, a proposito di gran bel pezzo, ascoltiamo il mitico Prince, questo viene dal film Purple Rain, e mi piace tantissimo l'immagine dove sta con la ragazza e mette questo bel brano, un pezzo fortissimo, When Doves Cry. Dig if you will the picture of you and I engaged in a kiss, the sweat of your body covers me, can you my darling, can you picture this? Let's in bloom. Lurman with a Purple Rain, sua versione dall'album Something for Everybody del 1998, e praticamente questo viene da un album dove lui ha rifatto tanti versioni dei brani coinvolto nei film dove ha lavorato lui come Purple Rain di Prince, l'originale che abbiamo sentito prima. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine. Plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. No reason to get excited. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Confusion here. I can't get. Mix abbiamo sentito dal nostro Giancarlo Raiola on controls, bravissimo. That's All Along the Watchtower 4 versione. Prima abbiamo sentito l'originale di Bob Dylan dall'album John Wesley Harding del 1967, poi il cover elettrico di Jimi Hendrix, Electric Ladyland era l'album del 1968, gli U2 poi in versione dal vivo del 87 live in San Francisco, e per chiudere tutto Bob Dylan versus Funkstar Deluxe da quest'anno. E adesso ascoltiamo Barry White. I'm like a blind man who's lost his way. I can't see nothing. I'm like a deaf man who can't relate. God, I can't hear nothing. See the trouble with me. I can't do nothing without my baby. Yet as plain as can be, it's gonna drive me crazy. I walk a lonely street late at night, lonely, lonely. Everything I do is wrong, never right. I'm lonely for a whole day. See the trouble with me. I can't do nothing without my baby. And it's plain as can be, it's gonna drive me the problem with me, you see the trouble with me on Remake questa domenica pomeriggio dal 2000, e prima di quelle l'originale era Barry White, you see the trouble with me dal 1975, Remake versione vecchie e poi versione nuove, belli proprio. Saluto Alfredo che mi ha scritto, in effetti siamo in spiaggia ad Ischio, io bevo Aira, ha detto, credo che vuol dire birra. Roby parla con Valentina, Ivana legge Oscar Wilde, Terry piglia il sole, un saluto da tutti e da me, grazie Alfredo. E poi Antonella che mi ha scritto, il Napoli è sceso in B, sono troppo triste, ma non importa, resterà per sempre al primo posto nel mio cuore e di tutti i veri tifosi. Forza Napoli per sempre. Ok, listen to Remake 348-661-9461 è il nostro numero di SMS. E ragazzi, abbiamo parlato del Napoli, sì siamo triste, però dobbiamo pure mettere una bella parola per la Roma, dopo 18 anni pigliano la scudetta un'altra volta, quindi auguri a voi. Here's Phil Collins and Another Day in Paradise. Of her feet. Let me help you out. She she can't walk, but she's trying. With Another Day in Paradise insieme a suo fratello Ray J. Bello questa versione di un canzone di Phil Collins, e noi abbiamo ascoltato l'originale prima dell'album But Seriously del 89. Comunque voglio segnarvi che questo Another Day in Paradise è di quest'anno 2001, è uscito su un album di nome Urban Renewal che contiene solo cover rap e hip hop di brani di Phil Collins, e ci sa pure Old Dirty Bastard e Little Kim e anche Joe e Kellis su questo album. Bello proprio. Allora, you're listening to Remake questo domenica pomeriggio. Voglio salutare Roberto dal Zeffiro Club giù a Calabria. Spero che ci piace, vi piace la musica questo pomeriggio. And we're gonna listen to another classic now. It's Sunshine Reggae. Per stare sulla spiaggia, it's laid back. Give me just a little smile. Bellissimo pezzo per questo domenica pomeriggio di sole, e Giancarlo Raiole si sta divertendo così tanto a remixare e a mixare questi dischi insieme, che ha messo l'originale, poi il cover, poi l'originale di nuovo per concludere col cover. Quindi avete sentito due volte Laid Back, un gruppo danese, with Sunshine Reggae dell'83, e poi sempre Laid Back però insieme di Funkstar Deluxe with la loro versione di Sunshine Reggae da quest'anno. Bello proprio, musica di domenica pomeriggio. Allora siamo in Italia, ascoltiamo un pezzo che ha vinto il festival di Sanremo qualche anni fa di giovani. It's Andrea Alessandro Baldi a Non Amarmi. Perché piangi di felicità? E perché non mangi? Ora non mi va. Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. Io ti voglio bene. Questo non lo so. Stupido testone, dubbi non ne ho. Anche se il futuro ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio innamorarmi. Non amarmi per il gusto di qualcosa di diverso. Ma tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se il tuo amore non valgo, non amarmi, ma non mandarmi via. Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi per cambiare il mondo, tanto il mondo non si cambia e siamo tutti specchi fatti per guardarsi e diventare soli e vecchi. Non amarmi per morire dentro in una guerra dei rimpianti e di ripensamenti. Non amarmi per restare a terra invece di volare come questo nostro amore deve fare. No sé qué decirte, esa es la verdad. Si la gente quiere, sabe lastimar. Tú y yo partiremos, ellos no se mueven. Pero en este cielo sola no me dejes. No me dejes, no me dejes. No me escuches si te digo no me ames. No me dejes, no desarmes mi corazón con ese no me ames. No me ames, te lo ruego, mi amargura déjame. Sabes bien que no puedo, que es inútil, que siempre te amaré. No me ames, pues te haré sufrir con este corazón que se llenó de mil inviernos. No me ames para así olvidarte de tus días tristes. Quiero que me ames solo. No me ames, tú y yo volaremos uno con el otro y seguiremos. questa è la voce di Mark Anthony facendo un duetto con Jennifer Lopez. Il pezzo si intitola No Me Ames e viene dall'album di Jennifer Lopez On The Sex del 1999. Ed è incredibile pensare che questo è un cover di un brano italiano, il nome Il Sole è il nome dell'album. Il pezzo si intitola Non Amarmi e loro erano Francesca Alotta insieme ad Alejandro Baldi. Ok, the music on Remake continues. Devo salutare Manuela che ha scritto Robby, ha detto grazie di esistere, la mia sorella, bello questo. Ok, the sound of Rough coming up now, sempre musica italiana. Abbiamo il controllo, l'autocontrollo, in inglese si dice self control, vediamo che dice Rough. Control del 1984, that's Laura Branigan with the song Self Control. E lei ha avuto un grande, grande successo facendo questi cover di Euro Disco, pezzi del Euro Disco. Ha fatto pure il cover di Gloria di Umberto Tozzi, però quello che abbiamo ascoltato adesso on Remake questo domenica pomeriggio era la versione originale di Raff with Self Control on Remake. Piccola pubblicità per noi adesso, torniamo tra pochissimo. Hey, Remake. Like this. I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spot that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Trey fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. Slim Shady, brain dead like Jim Brady. I'm an M80, you little like that Kim lady. I'm buzzing, dirty dozen, naughty rotten rhymer. Cursing that you play is worse than Marty Schottenheimer. You whacking in the motherfucker you bitch your style from. You ain't gonna sell two copies if you press a double album. Admit it, fuck it, while we coming out in the open. I'm doing acid, crack, smack, coke, and smoking dope then. My name is Marshall Mathers, I'm an alcoholic. I have a disease and they don't know what to call it. Better hide your wallet, cause I'm coming up with this strip of cash. Bought a ticket to your concert to come and rip your ass. Bitch, I'm coming out swinging so fast that it make your eyes spin. You getting knocked the fuck out like Mike Tyson. The proof is in the pudding, the stats are Sean Holdman. I slit your motherfucking throat worse than Ron Goldman. Cars, diamond rings, gold chains, and champagne. This shit, every damn thing, I want it all. Houses, expenses, my own business, a truck, and a couple of Benzes, I want it all. Bello questo remix di Baby One More Time. Le voci che sentite sono Q-Tip, Busta Rhymes, Dr. Dre, Eminem, Warren G, Missy Elliott, Nas and Snoop Dogg. E l'originale chiaramente di Britney Spears with Baby One More Time, Hit Me One More Time from her debut album from 1999. Allora ragazzi, le cose migliori nella vita non costano niente. The best things in life are free. Sono le voci che dicono Luther Vandross, Janet Jackson, Belle Biv DeVoe and Ortres Van, tutti i remix questo domenico pomeriggio per portarci alla conclusione di un'altra bellissima edizione di Remake. Allora, the best things in life are free, come l'amore. Ciao, un saluto a tutto il mondo e un bacio al mio amore Sergio Volpe, do Lucy di Aceroli. E poi devo salutare a Bruno, il nostro più piccolo ascoltatore, è nato proprio giovedì scorso, e ai suoi genitori Mimo e Giuliano. Auguri ragazzi. Allora, è il tempo di andare per tutti i mixaggio che abbiamo fatto questo pomeriggio. Devo ringraziare dal cuore al nostro Giancarlo Raiola e a tutti i nostri ascoltatori per averci seguito questo pomeriggio. Ornella arriva dopo il notiziario. Vi do appuntamento per la settimana prossima oppure domani sera per I Love America alle ore 21. Ragazzi, ciao, buona domenica!